Non sfuggiranno più, nemmeno se nascoste tra boschi e campagne, le case fantasma di proprietari evasori che non pagavano un euro di ICI o di IRPEF. È quasi completa la mappatura di fabbricati completamente sconosciuti al catasto, condotta dall'Agenzia del Territorio, insieme alle fiamme gialle per le zone più calde. A fine operazioni dovrebbero raggiungere quota 2 milioni le particelle schedate, cioè terreni in cui le foto aeree negli anni scorsi avevano scovato costruzioni senza identità fiscale. Solo quest'anno, a fine novembre, si sono contate 1.728.000 particelle esaminate e il risultato totale delle indagini partite nel 2007 ora è di 2.228.000 unità accertate, tra cui ci sono quelle che potrebbero già entrare a pieno titolo nel catasto. L'obiettivo è di sommare altre 760.000 particelle entro fine anno. A onor del vero, l'accelerazione c'è stata anche grazie al periodo di autodenuncia scaduto il 2 maggio 2011, in cui i proprietari fantasma hanno spontaneamente segnalato 900.000 unità al fisco. Alla fine diventerebbero tassabili almeno 600 milioni di rendite catastali e grazie alla nuova versione dell'IMU potrebbero portare a circa 700 milioni di tasse già nel 2012. Risorse preziose per le casse dello Stato e a portata di mano per il governo Monti, che può far pagare così rapidamente il dovuto, compreso il passato sommerso delle case fantasma. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.